Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Vi riporto nel 1918. Tristian Zara pubblica il Manifesto Dada, il programma di un nuovo pensiero sull'arte e sulla vita. Siamo sulle ceneri della Prima Guerra Mondiale, c'è qualcuno che comincia a rifiutare i valori del ceto borghese, ritenuto responsabile di avere provocato il conflitto, portato alla distruzione il mondo di prima. Ma cos'è Dada? È niente, perché Dada rifiuta tutto. Dada non significa nulla. Abolizione della logica. Dada. Abolizione di ogni oggetto, di tutti gli oggetti. I sentimenti ai buoi, le apparizioni e lo scontro inequivocabile delle linee parallele sono armi per la lotta. Dada, abolizione della memoria, Dada, abolizione dell'archeologia, Dada, abolizione dei profeti, Dada, abolizione del futuro, Dada. Fede assoluta irrefutabile in ogni Dio che sia il prodotto immediato della spontaneità, Dada. E ne parleremo ancora di questo movimento che per certi versi confina un po' con il futurismo e per altri versi e invece lo supera o comunque va altrove. Però sono tanti i nomi importanti che fanno parte di questo movimento: Jean Arp e Tristian Zara, di cui abbiamo appena ascoltato il pensiero, e poi i pittori Max Ernst, Francis Picabia, il fotografo Man Ray, Marcel Duchamp. Ma tra tutti questi nomi noti c'è anche uno che in pochissimi di voi avranno sentito. È un peccato, perché io vi racconterò di Elsa von Freytag-Loringhofen, la baronessa Elsa. Per fortuna mia e vostra, non tutti però questo nome non l'hanno mai sentito pronunciare, perché c'è una nostra ascoltatrice che si chiama Vera Lazzarini che ci ha chiesto proprio di parlare di questo personaggio. Buongiorno Vera. Buongiorno Enrico, buongiorno. Buongiorno. Senti, tu sei merce rara, insomma, in questo mondo un po' superficialotto, perché sei andata a scavare in fondo. Cosa ti piace, cosa ti affascina della baronessa Elsa? Allora, mi affascina il fatto che abbia vissuto 100 vite in una. Sì. Che è sempre stata anticonvenzionale, spregiudicata. Sì. E ha vissuto la sua vita come se fosse un'opera d'arte. Esatto. Dobbiamo ricordarcelo nei tran tran della quotidianità. È molto molto bello quello che hai detto. Vera, ti mando un abbraccio, buon ascolto con la baronessa Elsa. Grazie, arrivederci. Eh sì, stiamo per parlare di un personaggio veramente incredibile, unico nel panorama del Novecento, poi capirete perché. Ma intanto stavamo raccontando il movimento dadaista che nasce a Zurigo, nel cuore di una Svizzera che rimane neutrale, ma che attorno a sé ha tutta l'Europa che sanguina. Come dicevo, insomma, il dadaismo ha qualcosa in comune con il futurismo marinettiano, però li separa il punto di vista sulla guerra, perché i futuristi dalla guerra sono in un certo senso affascinati e invece i dadaisti la detestano. La parola non significa niente, forse è un sì in russo, da ripetuto due volte. Secondo altri la parola in francese significa cavallo a dondolo. Insomma, la cosa più probabile, come abbiamo già detto, è che non significhi nulla di preciso. L'importante è stupire, sconvolgere, provocare. Cercavamo un'arte elementare che curasse gli uomini dalla follia dell'epoca, un ordine nuovo che ribaltasse l'equilibrio tra il cielo e l'inferno. Andiamo verso il nostro personaggio, che se non ci fosse stata Vera forse ci sarebbe anche sfuggito, ma vedete, gli ascoltatori del Falco e il Gabbiano, insomma, sono ascoltatori di categoria superiore, diciamoci la verità, interiormente, intellettualmente, umanamente. Quindi andiamo su Elsa von Freytag Loringhofen. Vi faccio sentire una descrizione che lei stessa fa del suo abbigliamento in occasione di una festa all'ambasciata francese a Berlino degli anni 20. Sentite un po'. Indossavo una grande torta di compleanno sulla mia testa con 50 candele accese fiammeggianti. Mi sentivo proprio così coraggiosa e irresistibile. Sulle mie orecchie avevo orecchini fatti con prugne secche. Inoltre avevo messo più francobolli come marchi di bellezza sulle mie guance dipinte color smeraldo e le mie ciglia erano fatte di penne dorate porco spino. Questo per civetteria nei confronti del console. Inoltre portavo alcune corde di fichi secchi intorno al mio collo per dargli modo di succhiarli al mio ingresso all'ambasciata. Ecco, vedete, avete sentito, spero abbiate preso appunti. Siamo a grandi livelli, io non saprei cosa scegliere tra i fichi secchi da succhiare o i francobolli che vengono usati come nei sulle guance. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio personaggio che ha incarnato alla perfezione il movimento dadaista. E se il dadaismo sta lottando contro la razionalità, beh, la baronessa Elsa è tutto fuorché una persona razionale. È una poetessa, un artista, una scultrice, animatrice delle serate artistiche di New York, dove lei arriva poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e lei mescola il quotidiano con l'assurdo, l'ovvio con l'inusuale. Per lei scrivere una poesia o andare a fare la spesa non fa differenza, perché entrambi sono gesti artistici. Jean Heap, fondatrice insieme a Margaret Anderson della rivista letteraria Little Review, pubblica le poesie di Elsa e lei ce ne dà la migliore definizione. L'unico essere vivente che veste Dada, ama Dada, vive Dada. La baronessa Elsa nasce più modestamente come Elsa Plötz, nasce nel 1874 a Swinemünde, che è un paesino della Pomerania, un tempo parte della Prussia, oggi saremmo in Polonia. E lei non ha un'infanzia felice, il padre è un muratore piuttosto rozzo e violento, la madre muore quando Elsa ha solo 18 anni, muore di cancro all'utero e lei è convinta che il tumore sia una diretta conseguenza della sifilide che il padre le ha trasmesso. Insomma, inizia a ribellarsi. La relazione peggiora definitivamente quando il padre, dopo la morte della madre, 3 mesi dopo sposa una donna che lei detesta. Anni dopo, in una delle sue poesie, la baronessa descrive l'eredità ricevuta dai genitori. Da un padre molle, la mia volgarità è innata. La sua crudezza mi ha destinata ad essere uguale, un seme abbandonato, fiorito da un mucchio di merda. Sono nata a coronamento del suo scopo. Da mamma ho ereditato la noia. Per una volta ho scosso le gambe di legno di un regno. Ma io non lascerò che queste catene mi imprigionino. E non c'è niente da dire su cosa questa donnaccia farà. Il matrimonio un affare? Poco dopo l'arrivo della matrigna, Elsa decide di lasciare la casa paterna, va a Berlino da una zia che descrive come una vecchia zitella devota alla mia mamma. Chissà se la vecchia zitella era già al corrente del comportamento disinvolto della nipote, forse alla ricerca del famoso matrimonio di convenienza, il matrimonio affare. Elsa, che sa di piacere agli uomini, comincia a usare il suo corpo a suo vantaggio, partecipa a spettacoli di vaudeville che vanno dal tableau vivant a vere e proprie scenette al limite del pornografico, soprattutto per quegli anni, ma sono esperienze che le servono, perché conosce uomini ricchi che la possono salvare dal costante pericolo della povertà, e poi comincia a sperimentare il sesso in ogni suo aspetto a 360 gradi, anche con le donne. E lei rimane a Berlino 6 anni, conosce tutti, fa l'amore con molti di loro, guadagna ben poco, però dall'inizio ha una carriera eccentrica e oltraggiosa che la porterà in giro per il mondo. Il falco e il gabbiano. Siamo rimasti a Berlino, dove è arrivata alla fine dell'Ottocento la nostra protagonista, la baronessa Elsa. In realtà si chiama Elsa von Freytag Loringhofen e diventerà una delle più originali esponenti del dadaismo newyorkese. Entra in possesso della piccola eredità della madre, la madre è morta lasciandola con un padre che lei detestava, infatti è per questo che se ne va. Va a Dachau, dove inizia a prendere lezioni d'arte, e qui c'è una grande colonia di artisti, è qui che lei conosce un architetto abbastanza quotato, si chiama August Endel, e lo sposa. Si sposano a Monaco nel 1901, tornano a Berlino, ma il matrimonio si trasforma quasi subito in un ménage à trois. E il terzo, stavo per dire incomodo, ma insomma mica tanto incomodo, è un amico del marito, uno scrittore, si chiama Felix Paul Greve. si dice che August, il marito, quello del matrimonio, fosse impotente. Fatto sta che l'amore tra Elsa e Felix comincia a prendere il sopravvento. Fanno un viaggio tutti e tre assieme, poi il povero marito viene abbandonato per strada, i due amanti vanno a Palermo e lei dedica a Palermo anche una poesia molto bella. Una notte plumbea serra la città. Gocce come bolle intrappolate risalgono la volta d'ametista, pioggia esorbitante, vegliano cieli di perla. Insomma, quindi in questo trittico c'è un marito impotente e un amante partecipe, come dire, alla luce del sole, che non è che sia uno stinco di santo, è uno che vive chiedendo soldi, che viene arrestato per frode, quando tornano in Germania è in prigione, esce nel 1904 e, aiutato da Elsa, ha una brillante idea, proprio da super cialtrone, inscena un finto suicidio per sfuggire ai creditori. Fugge in Canada, Elsa lo raggiunge, vanno a vivere negli Stati Uniti, si arrangiano come possono, poesie, furtarelli, un po' di agricoltura, insomma una vita modesta e neanche esaltante. Poi i due si separano e lei torna a fare la modella o cose del genere per mantenersi. Quando arriva a New York tutto comincia a cambiare, almeno all'inizio. Era venuta a New York al Ritz con il compianto barone von Loringhofen, che si affrettò a tornare in Germania allo scoppio del conflitto. E poi, non piacendogli la guerra, si è sparato. Un atto che la moglie ha considerato come il più coraggioso della sua vita. Margaret Anderson, della casa editrice Little Review, racconta l'arrivo di Elsa a New York. Il matrimonio con il figlio cadetto un po' svagato di una nobile famiglia tedesca. Tutto rimane un po' nel vago, ma per un po', grazie a questo barone, lei conosce i fasti dell'Hotel Ritz, i ristoranti di lusso, le amicizie altolocate. Però il secondo marito si suicida. Lei si trasferisce dal Ritz al Greenwich Village, si ritorna a scendere. Qui conosce gli artisti del momento, anche Marcel Duchamp, che è da poco arrivato a New York e che ha portato con sé in America il germe del dadaismo. Quanto alla portée de Dada en général. Riguardo alla portata del Dada in generale in due movimenti, quello di New York e quello di Zurigo, sono molto molto simili, anche se rispetto ad alcune forme e tecniche sono diversi. Per esempio a New York, quando si è di fronte a un pubblico, si ha un rifiuto del pubblico, ma è un rifiuto che non si manifesta con insulti o ingiurie dal palcoscenico. I due cominciano a frequentarsi molto, hanno una relazione, anche se a giudicare dalle poesie che lei scrive su di lui, insomma, qualche problema deve esserci stato. Quando ero giovane, stupida, amavo Marcel Duchamp. Era testardo, l'ho piantato. E insomma, se uno chiama il proprio amante shit, immagino che insomma tutto non sia proprio, che non giri alla perfezione. Ma Duchamp aveva una reale ammirazione per la baronessa Elsa e la definisce agli amici così: la baronessa non è futurista, lei è il futuro. L'ammirazione di Duchamp nei confronti di Elsa non è solo dovuta a questioni di attrazione. Nel 17 lui scrive una lettera alla sorella in cui le racconta entusiasticamente di una sua amica, questa baronessa Elsa, che ha mandato un orinatoio per la presentazione al Salone degli Indipendenti. E sì, l'opera più conosciuta di Duchamp, che si chiama Fontana, è un orinatoio messo a testa in giù, è un'icona dell'arte contemporanea, probabilmente è nata da un'idea proprio di lei, della baronessa Elsa von Freytag-Loringhofen. Insomma, lei probabilmente ha influenzato Duchamp. Di certo il grande artista francese gioca una parte importante nella produzione artistica di lei. Insieme alle poesie, lei comincia a creare anche delle sculture composte con oggetti che trova dove capita, spesso per strada o nell'immondizia, come un tubo che una volta piegato e posto su un piedistallo di legno diventa God, Dio. E siamo 70 anni prima di Andy Warhol, non so se mi spiego. Sono sculture che seguono perfettamente le linee guida dei famosi ready-made inventati proprio da Marcel Duchamp. J'avais fait le Portbouteille. A Parigi, nel 1914, ho creato il portabottiglie, che è diventata una specie di scultura, che oggi è considerata una delle sculture fondamentali del XX secolo, ma che all'epoca non aveva intenzione di diventare una scultura nel senso letterale della parola. È diventata poi un ready-made nel 1915, quando mi sono inventato la parola, perché la parola non esisteva a Parigi. Solo quando mi sono trasferito a New York mi sono fatto sedurre da questa parola per qualificare questo genere di oggetti. Il falco e il gabbiano. Stiamo parlando della baronessa Elsa von Freytag Loringhofen, una musa, una protagonista del movimento dadaista nei primi anni del Novecento. È una che arriva a New York dalla natia Germania, vedova appunto del barone von Freytag Loringhofen, diventa amica di personaggi come Marcel Duchamp, come Man Ray. Sono anni creativi, sono anni scandalosi, sono anni in cui tra futurismo e dadaismo si combatte una battaglia per la novità, tutto viene ribaltato, lei non si fa pregare, è la prima che stupisce chi le sta attorno. Margaret Anderson, editrice delle sue poesie, dice di lei: è l'unica figura della nostra generazione che merita la definizione di straordinario. La baronessa non si tira indietro davanti a nulla, neanche quando Duchamp e Man Ray le propongono di girare un cortometraggio intitolato La baronessa si rade i peli pubblici. Ricordiamoci che siamo agli inizi del Novecento, rimangono pochi fotogrammi, diventano famose le sue invenzioni in fatto di abbigliamento, ma soprattutto stiamo parlando di rappresentazioni che sono avanti decenni rispetto a quello che poi accadrà. Sentite come uno dei suoi amici descrive la baronessa. Con gesto regale, aprì i lembi dell'impermeabile scarlatto. Era in piedi davanti a me, nuda o quasi. Sopra i capezzoli aveva due minuscole lattine di pomodoro legate da un cordino verde dietro la schiena. Tra le due lattine pendeva una piccolissima uccelliera con dentro un canarino vivo e desolato. Un braccio era coperto dal polso alla spalla da anelli di celluloide per tende, che poi confessò di aver rubato nel reparto di arredamento dei grandi magazzini Vanamaker. Si tolse il cappello che era stato decorato in modo grazioso e appariscente con carote dorate, barbabietole e altri ortaggi. Beh, insomma, stiamo parlando di una veramente avanti anni luce, però queste cose a volte poi si pagano col passare del tempo. Lei diventa sempre più strana, eccentrica e poi è cleptomane, e non ruba solo nei grandi magazzini ma un po' dove capita, al punto che viene arrestata. Però diventa bravissima a scappare dal cellulare, gli stessi poliziotti, si dice, la lasciano andare ammirati per la sua destrezza. È bisessuale, tra le tante donne con cui ha delle storie c'è quella con Juana Barnes, è una scrittrice americana ed è una storia importante. La Barnes le resterà amica fedele per tutta la vita, però intanto questa vita scorre implacabile e lei non è più così giovane e piacente. All'inizio degli anni 20 le cose tornano a essere difficili perché molti amici sono tornati in Europa, è finita la Grande Guerra, anche lei pensa di poter trovare miglior fortuna in Germania grazie al suo cognome altisonante, ma la realtà, ahimè, è molto diversa. La baronessa Elsa von Freytag Loringhofen torna a Berlino nel 1923, però scopre una città e una nazione piegate dalle terribili condizioni imposte dai vincitori della guerra. La Berlino della Repubblica di Weimar non è più la città facile, eccitante della fine dell'Ottocento, siamo in piena crisi economica, i tedeschi sono in ginocchio, insomma tutto questo poi aprirà la strada a derive terrificanti, come sappiamo, negli anni 30. Lei è senza un soldo, intanto è costretta a vendere giornali per strada, è magrissima, pesa poco più di 40 kg, scrive poesie, alcune le invia a vecchi amici per sperare di ricevere qualche soldo. Juana Barnes è una di quelli che l'aiuta come può ogni volta che arriva una lettera di Elsa che la prega di aiutarla. Carissima Juana, Ero così sconvolta nell'animo, così disperata per la solitudine e per la triste circostanza di non avere nessuno con cui parlare che sia al mio stesso livello. E non mi riferisco a quello artistico. Ma per fortuna ho incontrato chi ha capito la mia solitudine e disagio mentale e mi ha raccomandato a una signora ufficiale nel servizio di assistenza sociale, che mi ha preso a ben volere. E anche i medici dell'ospedale mi hanno ricoverato per darmi un po' di riposo, di cui ho tanto bisogno. Forse anche perché sospettano che io possa essere mentalmente squilibrata. A volte una persona come me può soffrire di questo genere di cose. E nell'ospedale psichiatrico la baronessa Elsa va a più riprese. Peraltro sono dei momenti comunque di tregua dalla miseria e dalla fame, però gli ospedali non sono degli hotel. Quando i medici si rendono conto che con un personaggio come lei c'è poco da fare, la dimettono. Beh, pare che invece non sia affatto matta, al contrario. Al contrario, pensano che sia una persona ben educata e colta. Capiscono perfettamente la mia situazione e sono pronti a tenermi qui per un po' mentre l'assistente sociale sta cercando con l'aiuto della polizia di farmi avere il visto per la Francia e persino aiutarmi a raccogliere dei fondi. Insomma, come spiega Giuna Bars, per lei lasciare Berlino diventa un chiodo fisso. Vuole andare a Parigi, la ritiene l'ultima sua speranza di vita. Ci vogliono 3 anni però per coronare il suo desiderio. Solo nel 26 lei è riuscita a raggiungere nella capitale francese. Quando sarà giunto il momento di partire, a chi dovrò rivolgermi per ospitarmi brevemente, visto che tu non sei a Parigi? Bernice potrebbe darmi ospitalità per i primi giorni, fino a quando non ho trovato una stanza dove stabilirmi? Chiederò a Marcel e a Man Ray di aiutarmi. Però a Parigi le cose non migliorano. Lei cerca di vendere le sue poesie, però non interessano. Chiede soldi a chiunque conosca. Vuole aprire una scuola per modelle. Questo sarebbe il suo grande sogno. In realtà si rivela l'ultimo suo sogno, perché il 14 dicembre del 27 muore nel suo piccolo appartamento, intossicata dal gas della cucina lasciato aperto. Ha solo 53 anni e nessuno saprà mai se si tratta di suicidio, di disattenzione o addirittura di qualcuno che abbia intenzionalmente lasciato aperto quel fornello. Questo perché in realtà il suicidio non sembrava veramente nelle sue corde, come qualche anno prima scriveva all'amica Giuna dalla Germania. Non è facile guardare il suicidio in faccia, anche se non temo la morte, Giuna. Mi piace come a tutti coloro che hanno un corpo e un'anima. Ma io non sono preparata ad abbandonarmi a esso. Non è mai entrato nei miei calcoli. Chiedi a Bernice. Non ho una natura morbosa. Ecco perché soffro così, perché io vivo in modo estraneo al mio essere. Sono costretta allo sconforto dal mio temperamento messo a dura prova da momenti come questi, in questa Germania che è in un vortice di distruzione. E io vi lascio con un'ultima definizione della baronessa Elsa che ci viene offerta proprio dalla sua amica Berenice Abbott. La baronessa era come Gesù Cristo e Shakespeare fusi in un tutt'uno. Elsa von Freytag Loringhofen, una donna veramente particolare che lascia un segno che forse è stato un po' cancellato dal tempo, ma allora fu un segno importante in una delle grandi rivoluzioni di quegli anni, il movimento dadaista. Insomma, a suo modo ha saputo volare e ha saputo volare anche in alto. Purtroppo la caduta è stata decisamente repentina. Ognuno di noi nella sua vita però può rischiare di cadere, ma un giorno per volare in alto se lo deve riservare, bisogna riuscirci. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a cercarmi sui miei social, Facebook, Twitter, sui nostri social, quelli del Falco e il Gabbiano, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani.